Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Otto e 33 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Con le voci particolarmente intubate queste mattine, ma non è colpa di Carmelo Lauricella in regia, anzi, lui è bravissimo, siamo noi, almeno sono io che sono raffreddato. Tu sei raffreddato, io sto benissimo. Megafono chiuso. Milano, Monterosa, Carlo, come butta? Al momento non piove, quindi ne siamo soddisfatti. Contenti. Sì, sono sempre delle previsioni molto difficili queste la mattina, perché è troppo presto per capire. Io guardo il cielo, cerco di intuire qualche cosa, ma sì, è molto difficile. Ricordiamo che più che previsioni sono, diciamo, lo stato dell'arte al momento. Sono Polaroid. Visto sono che Polaroid. Tu sei girato verso il vetro della sede di Radio 24 e puoi vedere com'è il tempo. E così diamo questa notizia, magari chi è ancora, non so, da casa. Sotto le coperte, non so a cosa serve questa cosa. Niente. Beh, per chi vive per in questa via, non è male. Non per chi è vive male. Qua. Sì. 800 24 00 24, cari ascoltatori, state con noi fino alle 10 per commentare le notizie di questa settimana. Tra poco partiamo con una cavalcata dalle principali fatti, con qualche audio che vi facciamo risentire. Poi, dove è possibile, come sempre, portiamo un raggio di sole con le nostre buone pratiche. E poi cerchiamo naturalmente di indovinare un personaggio della settimana. Questa settimana e per le prossime regaleremo libri a volontà, poi ripartiremo libri al posto di mostre. Ripartiremo anche con i biglietti per le mostre. Il libro è più facile perché la mostra, se la mostra è a Milano o a Roma e tu parti da Bari, non sempre è semplice gestire questa cosa qua. Invece il libro vi arriva a casa e il libro è tutto per voi. Omero, l'Iliade di Alessandro Baricco. Così. Oggi diciamo prima il titolo, sì, ieri abbiamo traccheggiato sul titolo a seconda delle risposte, oggi invece questo è il libro. E allora il personaggio che dovete indovinare, cari ascoltatori, è un personaggio che come sempre ha una notizia che lo riguarda negli ultimi 7 giorni ed è, primo indizio, sulla bocca di tutti. Quindi pensate, cominciate a far funzionare le rotelle del cervello, è un personaggio sulla bocca di tutti. 800 24 00 24, iniziamo, vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. No, è stato un interrogatorio molto, molto tranquillo. Ho risposto a tutte le domande e ho chiarito la mia posizione. Lei sapeva di questa polizza assicurativa di cui era beneficiaria? No, assolutamente no. L'ho appreso questa sera. Sono sconvolta. Gli ha detto, gli ha riferito che era uno strumento di investimento. Se le opposizioni... Anche perché danno, a quanto ho capito, un ottimo interesse. Quindi... Quindi le ha dato un consiglio? No, io mi tengo ben lontana da questi strumenti, diciamo sono quella che mette nel materasso. La vedo sorridente, quindi quando immagino che quando domani, nelle prossime ore, quando le opposizioni le chiederanno formalmente se non è il caso di dimettersi, lei... Ma assolutamente, assolutamente no. È una vicenda che mi ha visto del tutto estranea e che... peraltro è stata ricostruita anche in maniera molto fantasiosa. Potevamo non iniziare dall'intervista di Enrico Mentana, bersaglio mobile, al sindaco di Roma Virginia Raggi, interrogata questa settimana per 8 ore dai magistrati. Ci sono due accuse che pendono su di lei da questo punto di vista. Poi c'è la questione delle polizze, che però non sono al momento alcun tipo di ipotesi di reato secondo i magistrati. Più che altro c'è da capire un po' come mai il suo braccio destro le ha intestato queste polizze. Dovrebbe forse spiegarlo lui più che lei. Entrambi, nel senso che lui deve spiegare come mai l'ha fatta, lei forse deve spiegare come mai c'è stato lo stipendio triplicato. Quindi, comunque l'intervista è stata divertente anche in dei momenti con Virginia Raggi che si difendeva e giustamente diceva però voglio parlare anche di Roma, e alla fine però come grossa cosa ha detto abbiamo approvato il bilancio, che effettivamente per Roma approvarlo nei tempi è una cosa rarissima, se non più unica che rara. Però giustamente anche, anche Mentana a un certo punto gli ha risposto e gli ha detto sì, però se l'unica notizia è che avete approvato il bilancio nei tempi stabiliti non è proprio tantissimo in sette mesi. Diciamo che le notizie non mancano da Roma, poi diamo il tempo alla nuova giunta di cambiare, di migliorare radicalmente Roma, che anche ha un debito di oltre 10 miliardi, ha politici indagati da tutte le parti delle vecchie giunte, però insomma il tempo sta passando e le notizie nel frattempo non mancano, però non sono notizie appunto quelle che avremmo voluto sapere, ma sono sempre notizie che hanno a che fare più con la procura che con Campidoglio. Però c'è una risposta della Raggi interessante quando dice io non sono di destra, perché tutti dicono che è legata agli ambienti di destra, Alemanno, Previti eccetera eccetera. Sentite cosa dice: ho votato per i Verdi, dice, in passato. Io l'ho detto varie volte ma mi rendo conto di non essere creduta. No no, ma l'ha detto anche qui. No, ma votato. Io sono così poco giovane. Eppure vengo praticamente già etichettata come una di destra. Invece oggettivamente io ho sempre votato a sinistra, a volte credo anche di essermi spinta sui Verdi, sull'Italia dei Valori, però sono sempre pur non avendo il pollice verde. No, no, se purtroppo io credo di avere un pollice col teschio sopra, anzi le piante quando mi vedono si cacciano. No, la cosa più divertente è credo di essermi spinta sui Verdi e sui Italiani. Credo, se non me lo ricordo. Perché anche quello è a sua insaputa, ma soprattutto addirittura spinta sui Verdi. Adesso va bene, non sono esattamente dei rivoluzionari di sinistra. Comunque, però dopo allora, a un certo punto anche a precisare comunque non ci sarebbe assolutamente nessun problema se avessi votato a destra, perché credo che in quel momento, mentre diceva io ho sempre votato a sinistra, si è anche detta però un momento, perché ho preso un sacco di voti a destra con i quali sono andato adesso, sono diventato sindaco, quindi forse proprio dire comunque non me ne frega niente della destra, infatti ha subito messo una pezza. Non ci preoccupiamo, perché arriverà il giorno nel quale faremo a meno dei sindaci, come si potrà arrivare al giorno, ci siamo già, nel quale si può fare a meno degli amministratori delegati. C'è una notizia che riguarda la Freitag, quella azienda che riutilizza i teloni dei camion per fare borse e altri tessuti, un'azienda svizzera che ha da poco annunciato che rinuncerà alla figura apicale dell'amministratore delegato, cioè cambia le gerarchie, non c'è più bisogno di amministratore delegato, quindi risparmia uno stipendio enorme e poi non so che altro risparmia. Ma chi comanda, insomma, però, la domanda? C'è tutta un'organizzazione che funziona da sola, una specie di anarchia organizzata, e questo è una frontiera. Freitag, che significa venerdì in tedesco. 800 24 00 24. Noi adesso però ci occupiamo della rivolta dei pastori sardi. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Allora. Ormai l'abbiamo capito, la globalizzazione alimentare ci consente sì di importare cibi dall'estero a basso costo, latte, olio, frutta, grano, pesce, e questo è utile all'industria alimentare anche italiana, che può avere materie prime economiche, ma le nostre tavole rischiano di impoverirsi. È questo il futuro? Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo affrontare il terzo millennio senza, per esempio, pecorino sardo? Assolutamente no. Assolutamente no, almeno questo è il nostro punto di vista. Salutiamo Battista Cualbo, presidente di Coldiretti Sardegna. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Buongiorno. Allora, questa settimana ci lascia questa protesta, questa rivolta, hanno scritto i giornali con un po' di enfasi, dei pastori sardi, al grido di no pastori, no Sardegna, siete scesi in piazza. Ci spiega perché, che cosa sta succedendo? Sì, mi consenta un attimo in apertura di ringraziare anzitutto i tantissimi soci, la polizia, i vigili, i carabinieri che sono riusciti a gestire, nonostante gli animi molto caldi nostri, appunto c'è un po' di nervosismo, c'è un po' di tensione e un po' di nervosismo. Perché tantissima. C'è questo nervosismo? Ci al spiega. Nostro fianco ci ha fatto veramente piacere, voglio ringraziarli, tantissimi sindaci da tutta la Sardegna, non solo dal centro, ma tutta la Sardegna intera si è unita in questa avvertenza agricola. E noi diciamo alla politica tutta, sia chiaro, perché poi non vogliamo essere strumentalizzati dal centro, dalla sinistra, dalla destra, ma tutta la politica deve tornare al servizio delle imprese se vogliamo veramente ridare vado io al punto. Voi protestate contro il calo dei prezzi di vendita, non è più conveniente per voi allevare le pecore, ma anche semplicemente andare a pesca o fare altre attività di questo tipo. Normalmente i consumatori festeggiano il calo dei prezzi, però noi in questo caso sappiamo che c'è qualcosa, capiamo che c'è qualcosa che non va. Se il lavoro di un allevatore di pecore sarde non viene retribuito correttamente, che cosa è che non va in questo momento qua al buco? Non va, ha toccato il centro del problema, e cioè sia i consumatori che vanno ad acquistare, perché poi oggi sfido chiunque di voi ad andare a acquistare del pecorino a prezzi che possano favorire il consumo, quindi abbastanza accessibili. Invece ci ritroviamo dalla parte nostra dei produttori che ci viene il pagato il latte a 60 centesimi e il formaggio sotto i 5 euro al chilo, per cui effettivamente 5 euro al chilo. Questo è il prezzo che viene pagato da chi? Da chi? Dall'industria, verso che purtroppo acquista grande parte del formaggio anche dalla cooperazione. Perché noi sappiamo che quando lo andiamo a comprare in realtà completamente noi lo andiamo a comprare in realtà lo paghiamo, sì, non so esattamente il prezzo, ma mi sembra un bel po' di più. Esatto, sì, anche 20. Questo triplica. E quindi ecco che noi chiediamo una politica più attenta, ci metta in condizioni di poter essere competitivi, di utilizzare gli strumenti, perché in una situazione di crisi come questa noi ci permettiamo di restituire indietro a Bruxelles fondi ingenti. Basti pensare che siamo a 3 anni e mezzo dalla nuova programmazione e tutte le misure che sulla carta ci sono, a oggi non è stato speso un euro sui bandi di investimento, anzi abbiamo restituito 28 milioni di euro indietro a Bruxelles. Non si può continuare ad andare avanti in questo modo, c'è bisogno non più di parole ma di fatti, e chiediamo alla politica di essere super partner nel riuscire a gestire questa situazione. Concretamente come dovrebbe fare la politica, cioè chi può prendere delle decisioni a risolvere questo problema? Perché noi ci immaginiamo come Italia con concorrenti stranieri, e diciamo il problema sono i prodotti stranieri. Ne abbiamo un esempio grandino oltre oceano, Donald Trump, che dice producete in America, lo dice all'industria dell'auto, ma è un discorso che si potrebbe fare in generale, il tema del protezionismo. Noi siamo abituati a questo, però lei ci sta dicendo che il problema non è tanto solo la concorrenza dall'estero, ma anche proprio un tema tra agricoltura e industria. Esatto, anche quella. Noi più volte ci siamo seduti a dei tavoli assieme alla politica, alla trasformazione, e ci è stato sempre detto sono dei dati sensibili, hanno sparato sempre dei numeri e hanno mascherato la non programmazione accusando gli allevatori di aver prodotto troppo latte. Beh, credo che questo non sia giusto, e soprattutto si ripercuota su chi? Su noi che produciamo il latte. Quindi non è possibile andare avanti in questo modo. Alla politica, qualche abbiamo detto da diverso tempo, proviamo, ma non ora che il romano è sceso a questi prezzi, ma quando era intorno ai 9 euro, c'è bisogno di avere i dati certi per poter programmare e capire quale tipologia di formaggio fare. Poi ci ritroviamo un documento approvato qualche giorno fa dalla Commissione dove si dice si invita a produrre altre tipologie di formaggio, ma queste noi invitiamo le persone al bar, non invitiamo la politica a fare queste cose. Noi mi dice una cosa, però me la dice dopo il traffico, tra l'altro. Quante sono le persone in Sardegna, per esempio, impiegate in questo settore, allevatori, ma non solo, perché la protesta riguardava non solo i pastori ma anche altre categorie che hanno a che fare con l'agricoltura e con la pesca, perché stiamo parlando anche di una fetta, di una parte importante di occupazione in questa regione, che sappiamo già ha problemi con l'occupazione. Se gli diamo un colpo anche da questo punto di vista rischiamo il collasso. Le cifre di questa crisi dell'agricoltura sarda, però dopo il traffico, tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Bevete più latte, il latte fa bene. E allora la settimana della protesta, della rivolta dei pastori sardi, pastori ma non solo, Battista Qualbo, presidente di Coldiretti Sardegna. Quante sono le persone che lavorano in questi settori nell'isola? Guarda, noi oggi cerchiamo di far capire l'importanza di questo settore ai nostri politici, perché noi abbiamo bruciato 150 milioni di euro passando appunto da un euro che veniva remunerato nel 2015 ai 55 centesimi. Noi abbiamo 12.000 pastori in Sardegna, ma il problema non è, come diceva lei, solo dei pastori, ma riguarda tutti gli agricoltori, i pescatori, tutti quelli che ogni giorno cercano di trovare il reddito dal lavoro agricolo. E se non riusciamo a farlo capire a questa politica, che deve essere messa veramente al centro l'avvertenza agricola, non riusciremo sicuramente ad uscirne. Noi le diciamo che a proposito della solidarietà, che Sì, prego. Che succede? Siamo qui, senta, ma le volevo chiedere una cosa. Questa convocazione di questo tavolo, che giustamente lei dice lo chiedevamo da 2 anni ed è stato convocato il giorno prima della manifestazione, che è una cosa che fa anche abbastanza arrabbiare. Mi sente? Sì, noi sentiamo benissimo. Forse lui non sente. Adesso mi sento, ecco, sì, ho avuto un momento. Le rifaccio la domanda. Sì. Le volevo chiedere, la convocazione di questo tavolo sul comparto ovicaprino, che in realtà giustamente lei dice noi la chiediamo da 2 anni, il fatto che sia stato convocato il giorno prima della manifestazione è una cosa ridere. Che fa abbastanza ridere, perché sembra un boicottaggio della manifestazione. Ma com'è andato questo tavolo? Assolutamente, il tavolo non ci vede per niente positivi. Abbiamo avuto delle risposte, sia pure parziali, a livello diciamo ministeriale. Ci sono stati sbloccati dei premi che arrivano perennemente in fortissimo ritardo, e abbiamo chiesto che venga istituito l'ente pagatore in Sardegna, ma soprattutto non siamo d'accordo con quello che è stato deciso in regione, e presenteremo degli emendamenti, ma soprattutto riscenderemo in piazza se questo è il modo di gestire questa emergenza, e non avremo risposte concrete. Perché? E quindi le prossime mosse vanno in direzione della trasformazione e non di chi realmente produce, quindi, la materia prima. Quindi la protesta proseguirà, è questo? Assolutamente, se non avremo risposte concrete siamo pronti a scendere ancora più numerosi per farci valere. Si continua a parlare di diversificazione, non dobbiamo fare più la monocultura, quindi solo il romano, ma si invita, ripeto, le agenzie regionali di ricerca a fare nuovi prodotti, eppure questi erano stati già fatti nel 2010, e oggi dalla Monasai, dal nostro ente di ricerca che è l'Agris, e ancora oggi non se ne è portato manco uno avanti. Abbiamo il settore della pesca, potete immaginare un'isola che importa l'80% del pesce che viene da fuori, e ci permettiamo il lusso su 4 milioni e 4 dei fondi FEAMP di restituirne 4 milioni indietro. Beh, credo che sia veramente il momento di parlare di meno e di fare di più, se veramente non lo mettiamo solo come titolo l'agricoltura al centro, ma veramente vogliamo che noi siamo con voi, Qualbo. Io le farei anche l'imbocca al lupo, se però non si trattasse di pecore, perché non mi sembra il caso, e quindi le facciamo gli auguri per il settore della pastorizia, ma non solo in Sardegna, ma non solo, a tutta Italia facciamo gli auguri di riuscire a mantenere in piedi questo settore dell'agricoltura, dell'allevamento, che soffre sì di una concorrenza, soffre sì della necessità di avere prezzi concorrenziali anche dell'industria di trasformazione, ma che, avendo anche dei prodotti di eccellenza tipo il pecorino sardo, bisogna trovare il modo di tutelarli e di non disperderli. Grazie, buona domenica, Grazie per essere stato con noi. Buona domenica. Agli ascoltatori chiediamo naturalmente all'800240024 che cosa ne pensate, se vi siete fatti convinti delle richieste che avanzano i pastori sardi oppure no. E quindi chiamateci. E poi abbiamo una notizia che riguarda non solo il mondo del latte, ma più in generale il cibo. Vai. Ce l'abbiamo? Sì, eccola qua. Tac. È sempre un bel momento questo? Piccolo Lucio. In realtà la notizia non è una buona notizia, ma è la giornata, oggi si celebra la giornata contro lo spreco alimentare, la quarta giornata nazionale contro gli sprechi alimentari. A ricordarci tutti i dati è Last Minute Market di Andrea Segre, che noi conosciamo bene. E pensate, hanno fatto i conti, il cibo buttato vale 360 euro a famiglia. È una media, ma nelle famiglie dove ci sono più componenti all'interno della famiglia, naturalmente la cifra sale. È come se nel frigorifero ci fosse un pezzettino del nostro conto corrente immobilizzato lì. Cerchiamo di usarlo bene. Un euro al giorno, quindi. Un euro al giorno. Cerchiamo di non spendere male questi nostri soldi se non siamo sensibili, diciamo, direttamente alla questione dello spreco. Almeno pensiamo al portafoglio. Indirettamente penseremo anche agli sprechi. È una cosa incredibile, insomma, e va avanti così, anche se forse stiamo diventando più sensibili. C'è una legge nazionale, dice Segre, ce lo ricorda sempre, ma insomma buttare il cibo, sprecare il cibo non va bene, ragazzi, mi raccomando, organizzatevi, torte con dentro cose riciclate, minestroni con gli avanzi del frigorifero, si può fare tutto. Rosario da Catania, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, appunto chiamo da Catania, volevo anche parlare della questione dei pastori sardi che prego, prego. Sono sicuramente d'accordo che vanno aiutati. Io ho lavorato per 3 anni in Sardegna ed è una terra fantastica, sì. La pastorizia la rispetta come terra perché appunto non è deturpa il territorio ma anzi lo valorizza e quindi vanno aiutati. E poi non c'è solo il pecorino romano, loro fanno tutta una serie di formaggi, uno più buono dell'altro. Come no, come no. Per cui devono diversificare, appunto, devono pubblicizzare bene il loro prodotto e diversificarlo. L'ultima volta che ero in Sardegna ho acquistato pecorino sardo per strada, così da un pastore, era una cosa incredibile. Fra l'altro mi è durata proprio gli sprechi alimentari mesi e mesi in frigorifero, non so, per immodificare geneticamente. Ma quanto l'hai pagato? Quanto poco, l'hai pagato? Poco, abbastanza poco. È poco, e stiamo dicendo che bisogna pagarlo di più. Poco, ma sicuramente quanto basta per rientrarci, non i 5 euro al chilo che glieli paga l'industria, sicuramente, credo il doppio, qualcosa del genere. Rosario, volevi rispondere anche al personaggio della settimana, per caso? Sì, vai. Il personaggio della settimana per me è Sanremo, perché avete dato l'indicazione sulla bocca di tutti, allora avevo associato appunto le canzoni con... Certo, perché c'è Sanremo, no? Sì. Da martedì, la notizia c'è assolutamente, ma non era il personaggio che avevamo pensato. Grazie. Anche perché hai utilizzato un personaggio non umano. E questo ci piace sempre, ci piace sempre la perché, vostra fantasia. Esatto, non sempre, anche noi, è vero, noi non sempre scegliamo personaggi umani. Clara da Siracusa, benvenuta. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Come andiamo? Bene, però abbiamo 30 secondi per farti parlare. Allora, io ho chiamato per il quiz. Sì. Avevo pensato l'autore di Pac-Man. L'inventore del Pac-Man. Sì, che è morto perché? In questa settimana, diciamo. Sì, sì. In effetti ci stava, Clara, ci stava tutto perché sulla bocca di tutti non lo so, però è stato sicuramente uno dei giochi più giocati, dei videogiochi più giocati. Non era lui però il personaggio, è un altro personaggio sulla bocca di tutti che... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Beh, la riflessione c'è stata, la botta si è sentita e del resto, come giusto, mi sono dimesso. Forse l'errore più grande tra i tanti è stato quello di perdere di vista un po' le esigenze dei cittadini normali e pensare più alle dinamiche del palazzo. E questo è forse l'insegnamento più grande del dopo referendum. sta sbagliando a fare la legge elettorale, perché Renzi ha sbagliato non solo tutto il resto, anche a fare la legge elettorale, e ci ha portato attraverso la Corte Costituzionale alla Prima Repubblica. Anche questa cosa non la dice nessuno. La gravità dei danni che Renzi ha provocato al Paese e al Partito Democratico sono senza precedenti. Ma Emiliano, però, al di là del fatto che oggi non scrive niente nessuno, evidentemente nei libri di storia ci saranno queste cose. Io vorrei evitare di essere inserito, non dubito che qualcuno scriverà mai nei libri di storia di me, ma comunque evitare di stare dalla parte sbagliata. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, 800 24 00 24. Queste alcune voci della settimana. Beh, come autocritica, se non fosse quasi un'autocritica d'ufficio, quella di Renzi suonerebbe come una dichiarazione di fallimento. Dire mi sono dimenticato delle esigenze dei cittadini, ho pensato troppo a quelle del palazzo, è abbastanza, come dire... Troppo palazzo e troppo poca piazza in questo momento in cui Si è dimenticato dei cittadini. Per un presidente del Consiglio è gravino, insomma, sei lì per risolvere le questioni dei cittadini. Vabbè, comunque, tanto c'è D'Alema, ci pensa lui col nuovo partito, appunto al 10%. Se nasce un nuovo partito della sinistra in Italia in modo serio, diciamo, coinvolgendo le forze che penso siano disponibili a farlo, questo partito... Secondo certamente lei supererà il 10% dei addirittura, voti. Addirittura, diciamo. Si sta sbilanciando molto. Sì. 10%. Ma faccio una previsione perché oltretutto abbiamo fatto fare dei sondaggi che... Allora, togliete i diciamo dalle frasi di D'Alema e cosa rimane? Il 10% rimane. Che è comunque una bella... Nel senso che teniamocelo questo audio, allora, teniamocelo per qualunque cosa accada, perché dice sicuramente il 10%. Varrebbe la pena svegliarsi tutte le mattine alle 6:30 solo per sentire la rubrica Lo psicologo di D'Alema, che Alessandro Milan, insieme a Lorenzo Nespoli, alla redazione 24 Mattina, tiene appunto la mattina con le notizie e le dichiarazioni di D'Alema, perché in effetti siamo un po' in quell'ambito lì. Non ce ne voglia Massimo, gli vogliamo bene come vogliamo bene a tutti quelli di cui parliamo, però che dire. Abbiamo anche Brunetta, però vogliamo fare anche lo psicologo di Brunetta per par condicio, se volete, sentite qua. Voglio Renzi a casa per sempre e per questa ragione sono qui oggi con voi, e se qualcuno non lo vuole se ne assume le sue responsabilità. Il centrodestra unito vince. Ora non si capisce se vuole, come diceva giustamente Carmelo Lauricella, vuole Renzi a casa sua per sé. Voglio Renzi a casa per sé, perché Renzi però è già a casa. Cosa vuole di più? Beh, diciamo che voleva un applauso, se possiamo dirlo, perché Brunetta, questo era la manifestazione Italia Sovrana della Meloni e di Salvini, e lui era ospite, perché Forza Italia in realtà era ospite. Ha preso dei fischi all'inizio, tanto che la stessa Meloni ha dovuto dire no, stiamo ad ascoltare tutti, e ha dovuto chiudere dicendo voglio Renzi a casa, che è una cosa semplice da dire a una piazza, piuttosto che dei ragionamenti politici tra le loro divergenze in questo momento all'interno del centrodestra. Andiamo con gli ascoltatori all'800 24 0024. Giuseppe, che ci chiama da Cagliari, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, buongiorno, benvenuto. Ci siamo occupati di voi stamattina. Voi, complimenti per la vostra trasmissione, bellissima. Grazie. Grazie. Allora, secondo me la risposta è il naso. La risposta al personaggio della settimana, intendi, è il naso? Sì, perché appunto si trova sulla bocca di tutti. Sì. Ed è sopra la bocca, se vogliamo. Secondo me non ha avuto proprio naso nella scelta dei suoi collaboratori. La Raggi. La Raggi. Quindi il naso della Raggi in questo caso sarebbe. Esatto, sì. Beh, una risposta... intanto noi applaudiamo assolutamente alla risposta, perché come sempre grande ricordiamo... Grande fantasia e grande intelligenza. Non è detto che i nostri personaggi siano dei personaggi umani, quindi accettiamo assolutamente. Sta sulla e bocca. E poi il naso, diciamo che tecnicamente sta sopra la bocca, però va bene. Vabbè, sulla, sopra, ci può stare. Se sta proprio sulla, è una brutta faccia, ma comunque va benissimo. Non era il personaggio, però. Ma siamo contenti di avere in questo modo metaforicamente raccontato gli errori nella scelta dei collaboratori da parte del sindaco di Roma Virginia Raggi. Errori che si sono rivelati ex post, vogliamo dire così, perché sennò poi gli ascoltatori del Movimento 5 Stelle dicono ma parlate solo degli errori della Raggi, parlate sempre della Raggi. Vabbè, è il sindaco di Roma, però, insomma. E poi mi pare che qualche erroruccio ci sia stato nella nomina di qualche assessore. Poi, anche questa questione, perché l'ha ripetuto anche da Mentana, ma è, onestamente è una questione di notizie, nel senso che se esce la notizia della polizza, esce la notizia della polizza. È una notizia, assolutamente sì. Poi capiamo cos'è successo, magari è totalmente innocente, ci mancherebbe altro. Giuseppe da Bari, benvenuto. Pronto? Giuseppe, prego, tocca a te. Bene, vorrei rispondere sul personaggio. Sì, se puoi abbassare la radio e ascoltarci solo al telefono, altrimenti sì, abbiamo il ritorno. Sì, senz'altro. Io ho pensato che sulla bocca di tutti c'è la tromba, il trombone, Mr. Trump, trombone, tromba. è quasi un gioco di parole tra Trump e trombone. Un gioco di parole, sì, un gioco di parole. La parola è tromba, o trombetta. Vabbè, la notizia. Di notizie ce n'è quante se ne vogliono, insomma. Assolutamente. Non era però lui il personaggio. Ma non era il personaggio che abbiamo scelto. Era un po' troppo facile, forse, questa settimana. Grazie. Comunque, Giuseppe, grazie. È divertente anche il gioco di parole. Roberto da Latina, vediamo se ci avviciniamo. Vai, Roberto. Poi diamo un altro indizio dopo. Sì, buongiorno. Sì, prego. Prego. La risposta è il lupo. Il lupo, il lupo, in diciamo merito perché... alla notizia della settimana della decimazione dei lupi in seguito al sovranumero che c'è sugli Appennini. Cioè, diciamo che c'è, la decimazione ancora non è avvenuta perché c'è un piano del governo che dovrebbe liberalizzare in alcune. Tanto sì, ce ne occuperemo tra poco. Infatti, è un assist per noi. Sembra quasi preparato perché è l'argomento di cui ci occupiamo fra un attimo. E quindi non è il personaggio della settimana perché, appunto, ne parliamo in trasmissione. Ma siamo contentissimi che lei l'abbia ricordato come tema. Grazie Roberto, grazie. Grazie. Allora, a questo punto aggiungiamo, andiamo un altro indizio, così. È un altro indizio che è assolutamente in linea, quindi sarebbe andata benissimo questa telefonata, perché l'indizio è che il nostro personaggio è in difficoltà. Quindi nessuno più del lupo in questo momento. Però non è il lupo, è sulla bocca di tutti ed è in difficoltà. Pensate, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare, e ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare, e più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. E allora, è con noi, diamo la buona domenica, Fulco Pratesi, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Pratesi, presento un radio WWF naturalmente, ma insomma, avete vinto voi, tutto sospeso, rinviato, la questione del lupo, abbattimenti o soppressioni, come dice Galletti, però soltanto nel caso di lupi aggressivi, particolarmente aggressivi, no? E questo è il punto, perché Galletti dice: io non voglio riaprire la caccia al lupo, perché so che questo poi è un fatto anche simbolico per gli ambientalisti, per gli animalisti, cioè. Però nel caso singolo di un lupo particolarmente aggressivo, io la domanda da cui voglio partire è questa: che si fa se aggredisce greggi, se aggredisce anche popolazioni? Bisogna stare a guardare? Questo è una solita storia di aggressione che poi non vengono neanche ben documentate, come le tigri in India: se una tigre particolarmente aggressiva uccide qualcuno, forse si interviene, ma i lupi qua non hanno mai fatto nulla di quel genere. E oltretutto bisogna sapere che danni fanno, e se sono loro o se sono i cani randagi in selvaticidi, che sono molto più, diciamo, vicini all'uomo. Cioè, ci sono cani randagi che sono veramente. Cani randagi che sono più pericolosi dei lupi? In selvaticidi sì, perché sono molto più frequenti, oltretutto, e molto più abituati a convivere con l'uomo anche in sensi negativi, come sappiamo. Ma quindi, Pratesi, lei nega che ci siano casi di lupi documentati che hanno aggredito delle gregge di pecore o che hanno... cioè, è anche la storia proprio di questo animale che sì, è fatta di questo. Anche, sì, è vero, ci può essere, ricordiamoci il Capocetto Rosso e i tre porcellini, però ricordiamoci che anche ogni anno muoiono circa 200-300 lupi, sì, uccisi dal bracconaggio e da altro, e oltretutto sono animali che non hanno nessun interesse a avvicinarsi all'uomo, perché hanno delle prede, quando hanno delle prede possibili, caprioli, cervi o cigliari. Quindi si fanno i fatti loro nel bosco. Lei dice non sono documentate queste aggressioni, non ci sono, quindi non c'è il problema, secondo lei, da questo punto. Ma il problema ci può essere in casi assolutamente minimi e che andrebbero controllati, perché molte volte la gente favorisce una polemica contro il lupo anche per fare aumentare il numero delle prede dei cacciatori. Pensi che è bello avere un lupo ammazzato col fucile vicino al cacciatore che l'ha ucciso. Però oggi è proibito, perché quello che dice oggi è proibito, ma invece questo sarebbe possibile, anche se non in maniera generale, ma sarebbe possibile dargli la facoltà di poter ogni tanto uccidere un lupo. E questo significa aprire una sequenza di problemi che è meglio non affrontare. In realtà questa deroga sul lupo è una cosa che viene da lontano, o sbaglio? Perché già nel 92 si era fatta una deroga specificatamente per i lupi. No, non c'è nessuna deroga, non si deve fare. Casi assolutamente eccezionali, ma questo vale anche per l'uomo: uno che uccide 5-6 persone, a un certo punto viene messo in galera. Bisogna cercare di essere molto comprensivi, molto intelligenti e soprattutto saggi nel monitorare il numero dei lupi e le loro eventuali danni. Ma in quel caso vanno messi in galera i lupi, no, cioè andrebbero catturati. Ci sono dei sistemi magnifici. In Abruzzo, io sono stato per 10 anni presidente del Parco d'Abruzzo, i lupi ce ne sono tanti, ma non ci sono problemi, perché ci sono quelle magnifiche specie di razze di cani, come il cane maremmano abruzzese, che le tenevano a bada, per cui i pastori non facevano storie. E tanto è vero che anche la regione Abruzzo è stata la capostipite, la capolinea nel dire che il lupo non va ucciso. Però lei ha detto ci sono 200-300 lupi all'anno uccisi dai bracconieri, e questo è un argomento che sembrerebbe quasi a favore di Galletti, perché lui dice, il ministro dell'ambiente, proprio perché ci sono dei problemi, perché ci sono dei problemi con lupo, ci sono i bracconieri, e allora noi per eliminare i bracconieri diamo la facoltà alle regioni in maniera controllata di agire. Una maniera capziosa, il bracconiere sarà sempre il bracconiere, ucciderà sempre quello che può, anche animali protetti e altro, per cui è un altro discorso. Il lupo è un animale importante, è famoso nella nostra storia e ha una sua utilità nel contenere l'aumento eccessivo di erbivori selvatici, sì, dopo, ecco, perché questo è giusto al dirlo. Lasciamolo fare il suo mestiere, tanto più che uccidendo uno o due lupi si distrugge quel sistema di caccia che hanno i lupi in branco, che è rivolto soprattutto agli animali selvatici. Se deve essere invece perseguitato e ucciso in gran parte il gruppo, vanno poi a rifornirsi nelle greggi e nel bestiame. Senta, perché è giusto anche fare un passo indietro, magari per chi è più giovane e non ha memoria, perché la questione da cui siamo partiti era che la popolazione dei lupi stava diminuendo fino al rischio di scomparire in Italia. No? Dal 73 a 100 esemplari in tutta Italia. Ecco, quindi di lì poi è passata la proibizione assoluta di dare la caccia al lupo. Oggi i lupi però sono cresciuti, la popolazione è cresciuta, siamo tornati, Galletti dice 1500 in tutta Italia. Ci sarà un giorno in cui ci sarà un limite, saranno troppi? I lupi intanto si regolano da soli la loro crescita, diciamo così, di popolazione, perché hanno dei sistemi di controllo, soprattutto negli adulti, che sanno benissimo quando riprodursi, come riprodursi, e questa è la maniera migliore di controllarli. Oltretutto ricordiamoci che nei posti in Francia dove hanno riaperto la caccia al lupo i danni sono stati gli stessi, mentre invece in Piemonte, dove civilmente la regione Piemonte ha messo in opera tutte le varie, attività per contenerne i danni, e va, la cosa va bene. Mi ricordo precisamente quando i primi lupi arrivarono in Piemonte, allora era il presidente Ghigo del Forza Italia, molto bravo, fece un'azione di accoglienza di questi emigrati dal meridione, e la cosa andò molto bene, sia come recinti sia come cani da pastore. Ricordiamoci, il cane da pastore è il mezzo più efficace, e ricordiamoci anche in Toscana, dove ci sono danni alle greggi, ricordiamoci che il cane da pastore si chiama anche Maremmano. È il famoso pastore Maremmano. Certo, Maremmano perché i lupi. Senta, ma lei pure l'ha raccontato, ha un passato forse molto lontano da cacciatore, no? Sì, come no. Che ne pensa oggi della caccia? Tutto sommato è stato il modo più naturale con cui l'uomo in passato ha regolato i suoi rapporti con gli animali. Può essere crudele, può essere cinico, certo, tutto quello che vogliamo, però la natura lo è. Certo, hai detto, anche negli individui singoli, uomini, come me e altri, molti altri, dei, oggi grandi protezionisti di natura, è partita proprio da una conoscenza diretta con gli animali andando a caccia. Oggi è proprio cambiata la cosa, oggi gli animali sono tutta un'altra storia. Ricordiamoci che le foche monache, che erano considerate nocive ai pescatori, venivano uccise appunto, stanno finalmente risalendo la china, e oggi da 400 che erano ancora pochi anni fa sono saliti a 700. E la cosa più interessante nelle isole di Corfù e della Dalmazia, queste foche escono fuori, si avvicinano alla gente, si fanno carezzare dei bambini, addirittura salgono sulle barche e si stravaccano sulle spiagge. Quindi il futuro del rapporto tra l'uomo e gli animali, secondo lei, è un rapporto sempre di, come dire, sempre di rispetto, cioè non è più previsto, secondo lei? Eppure il genere umano nei confronti degli animali continua, da un altro punto di vista, a essere crudele. Pensiamo a certi allevamenti. Non parliamo degli allevamenti, pensiamo anche alla pesca. Non è che l'uomo con gli animali non sia crudele, ma non è un discorso di animalismo, più che altro un discorso di equilibrio ecologico che il lupo può garantire, mentre invece purtroppo negli allevamenti succedono quelle cose orrende di cui tutti sappiamo. Però secondo lei Galletti è stato, non so, mal consigliato, oppure ha capito male, oppure naturalmente le pressioni con tutte le cose è così, e ogni progetto e ogni progetto di legge e altro viene sempre contestato da un certo numero di persone, quando però la maggior parte delle regioni è contrario all'abbattimento, dico, non al controllo, naturalmente il controllo fatto con recinti. Però il piano prevedeva anche che fossero le regioni stesse a decidere, cioè lei non ha fiducia nel fatto che le regioni possano in qualche modo assumere. Le regioni potranno decidere, ma non credo ce ne siano tante che decideranno così, perché alla fine poi si ritroscerà contro di loro anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Senta, c'è anche una buona notizia però questa settimana che vogliamo celebrare con lei, Presidente del WWF, che è questo: l'Europa è in linea con i suoi obiettivi, famoso 20-20-20, sono dati della Commissione Europea, cioè 20% di risparmio energetico entro il 2020, 20% di fonti energetiche da energie rinnovabili, e poi il terzo 20 adesso non me lo ricordo. Meno consumi. Esatto, meno consumi. Quindi questa è un'Europa, l'Europa non ha una bella fama in questo periodo, anzi per niente, questa è, possiamo dire che è un'Europa positiva, che incentiva questo tipo di sviluppo energetico? L'Europa sta allineandosi in maniera molto virtuosa nei confronti degli impegni presi sia a Parigi sia anche ad Amsterdam, di mantenere 20% di limitazione di consumi e interventi sulle energie rinnovabili entro il 2020. E oggi siamo già arrivati, l'Italia è arrivata al 17%, ha superato già i limiti che erano previsti per quest'anno. Per cui, bene, diciamo la verità, grazie, diciamo, un po' alla crisi, forse nella crisi dei consumi e dell'industria, però c'è una buona performance di consumi virtuosi, soprattutto quelli che vengono dal vento, dalla pioggia, dal sole, ma soprattutto, ricordiamocelo, questo nessuno lo dice mai, la maggior parte di risorse rinnovabili vengono dalle nostre grandi dighe e da tutti gli impianti idroelettrici di cui l'Italia, sulle Alpi soprattutto, certo, è abbastanza forte. Noi da questo punto di vista siamo forti anche per quello. Il terzo 20 era il calo delle emissioni di CO2, che sono calate dal 90 al 2015 del 22%, a fronte, certo, di una crescita però economica che c'è stata del PIL del 50%. Certo, quindi siamo riusciti a garantire crescita economica e diminuzione delle emissioni. E questa è un'Europa, ripeto, che possiamo salutare con positivamente per una volta. Però resta la questione smog, perché invece l'Italia rischia, a quanto si legge, una multa che addirittura si dice che potrebbe arrivare a 1 miliardo di euro. E come mai l'Italia è così meno brava di tutti gli altri? Ma l'Italia ha dei problemi importanti. In primo luogo è una nazione con alta densità di popolazione, 200 passa abitanti al chilometro quadrato, che ha una grande intensità di traffico automobilistico. Ricordiamoci che ci sono in molte città quasi 1000 automobili per ogni 1000 abitanti, e questo è un altro sistema. Terza cosa, ferrovie che non funzionano, poco. E ancora quarta cosa, soprattutto i mezzi pubblici sono completamente derelitti, basta vedere quello che succede a Roma. Io sono, questo è vero, sì, si punta il dito contro le automobili private, però spesso le auto private sono tecnologicamente più avanzate dei mezzi pubblici, però la questione resta, no? Cioè si punta il dito soprattutto contro il traffico di autovetture, però poi sappiamo che le fonti di inquinamento sono anche altre, riscaldamenti, l'industria, riscaldamenti. Anche l'agricoltura emette particelle. Ma se lei fosse ministro dell'ambiente domani, bacchetta magica, cosa fa per prima cosa per combattere lo smog? Beh, cominciando finalmente a favorire quanto possibile il trasporto per ferrovia. E questo oggi, mentre ci sono stati dei grandi miglioramenti per le ferrovie ad alta velocità, le ferrovie secondarie saranno completamente abbandonate dappertutto, ed è molto difficile poter prendere un treno per andare per esempio a Orte o a Perugia, e questo va detto. E poi, in secondo luogo ricordiamoci che un uso del riscaldamento va mitigato. Ricordiamoci anche che a gennaio doveva scattare quella regola dell'Unione Europea di mettere le termovalvole ai riscaldamenti privati. Sì. Ecco, invece è stato rinviato al 30 giugno, un mese, sono 6 mesi in più di poter inquinare. Ricordiamoci che anche in Italia, oltre al riscaldamento fatto col gas, abbiamo aumentato anche l'importazione di gas metano, abbiamo ancora molti edifici che vanno avanti col gasolio e addirittura qualcuno pure col carbone, tant'è vero che l'esportazione del carbone è aumentato, pur di poco è aumentato, per cui bisogna stare attenti, perché un paese che vuole essere veramente virtuoso deve cominciare da quello. Va bene, grazie Pratesi, buona domenica. Grazie mille. Grazie, a presto, grazie. Un abbraccio. 800240024, Alessandra da Padova, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Prego. A voi e naturalmente buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Volevo partecipare appunto al quiz e provo, come dire, a dare la mia risposta. Per me è Carlo Conti. Sì, perché? Perché è stato, diciamo, oggetto di attacchi in questi ultimi giorni in virtù del compenso, diciamo, che gli è stato riconosciuto per la conduzione. Per Sanremo, quindi siamo ancora a Sanremo, sulla bocca di tutti per questo naturalmente, in difficoltà per la questione dei compensi. Sì. Però non era lui il personaggio, Alessandra, grazie. Va bene, grazie. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica, grazie. ci ha provato. Era in zona con una risposta che era già stata data precedentemente, quindi si poteva intuire forse che non era lui. Ci occuperemo di Sanremo la settimana prossima. Ah, beh, certo, giusto, sì, insomma, no. Il prossimo weekend noi. Francesca dalla provincia di Monza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, volevo partecipare al personaggio. Sì. Io pensavo a Johnny Depp, ho letto che è anche in difficoltà finanziarie. Ah, sì. È in difficoltà, sì, finanziaria. Lo sapevo. Come, vincere, che, ma però, soprattutto perché ho letto questa. Sì, perché pare che la sua agenzia gli abbia chiesto indietro dei soldi che gli aveva anticipato. Perché sì, pare, esatto, che Johnny Depp da credo una decina d'anni spenda 2 milioni di dollari al mese. Per mantenere tutta la sua ricca, diciamo, entourage di ville, staff, eccetera. Forse dovrebbe ridimensionarsi un attimino. Francesca, grazie per averci chiamato. in effetti è sicuramente in difficoltà, forse un po' meno sulla bocca di tutti, se no non sarebbe così tanto in difficoltà. Gennaro da Napoli. Vai. Salve, salve. Prego. Per quanto riguarda il personaggio, sì. Per me è Berlusconi, perché sta in difficoltà, perché sta aspettando la sentenza dell'Europa per candidarsi, sì, alle prossime elezioni. Pensa, appunto. Sì, è un po' meno sulla bocca di tutti che in passato, forse in questo momento Berlusconi, e in questo è un motivo anche per cui in effetti non era lui il personaggio a cui avevamo pensato. Gennaro, comunque grazie anche a te, non che fosse una vera notizia di questa settimana, perché questa attesa per questa sentenza c'è da un po'. Un'attesa su Berlusconi su una sentenza è un evergreen degli ultimi 20 anni, forse. 800 24 00 24 anche su quello che ha detto Pratesi a proposito della difesa del lupo sui monti italiani. Vi aspettiamo qui. Sono Enrico Ruggeri. Tutti mercoledì voleremo sulle ali di carta, raccontando i grandi personaggi della letteratura. E partiamo con una grande donna, Penelope, la regina che ha aspettato per 20 anni il re Ulisse. Alle 15:30 vi aspetto su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. O chi che siamo da qua? Devi sentire molto parecido a esse amor. This is it, on the water love. It is so deep, so beautiful and liquid. Esse amor com paixão. Underwater Law degli Smoke City, amore sott'acqua, e sott'acqua finiscono anche le multe sui parabrezza delle auto italiane, e per questo spesso diventano inutilizzabili, che è spesso illeggibili, una scusa per non pagare, ma da Cassino arriva la risposta. Stanno sperimentando la multa imbustata antipioggia. Ecco, noi il sindaco Carlo Maria D'Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Dalla provincia di Frosinone, Cassino. Allora, non ci aveva mai pensato nessuno a questa possibilità. La multa non ce la faccio neanche a pronunciarlo, imbustata nel cellophane. Ci spieghi un po'? Sì, guardi, soprattutto è una. Noi abbiamo una società esterna, ovviamente, che gestisce, sì, le multe che riguardano i parcheggi a pagamento. Lei sa benissimo, come sanno tutti, che la multa se pagata entro i primi 5 giorni dalla notifica allo sconto. Riduzione, quindi è vero. Conveniente che quel biglietto si legga e soprattutto che venga consegnato integro. E allora alcuni di questi dei 35 ragazzi stanno sperimentando questo imbustamento, soprattutto considerando che non è solo la pioggia ma anche un'umidità mattutina o serale che può creare problemi. La rugiada, la famosa rugiada. Esatto. Però la busta deve essere sigillata, perché altrimenti se entra l'acqua poi è finita, no? Assolutamente. L'importante, sì, guardi, è anche che la busta venga correttamente inserita in busta, che la busta, certo, venga anche collocata in maniera tale che non sul parabrezza, ma in maniera tale che l'acqua. Da quanto tempo state sperimentando questa cosa? Guardi, circa un paio di mesi. Perché io ho detto, non ci aveva mai pensato nessuno. In effetti qua è un si può fare un po' in forma di domanda, ci domandiamo anche noi dove ci può portare questa cosa qua, perché da un lato sappiamo appunto si può incorrere nella possibilità di avere lo sconto del 30% se si paga subito, non avendo in mano la multa questo non si può fare, però sappiamo anche che tante volte le multe vengono contestate perché io non ho trovato nulla perché c'era la pioggia e c'avevo solo riesco a leggerla, carta macerata, eccetera eccetera. A conti fatti, voi pensate di incassare di più o di meno con questa riforma, sindaco? Beh, guardi, noi contiamo di, detta francamente, di incassare il giusto, nel senso sta ridendo perché questo ci consente in qualche modo di... Il giusto vuol dire magari di più e non di meno, spero. Che... Esattamente. Cioè spero, penso che lei sia... È esattamente così. Del resto la multa sappiamo benissimo che se viene... se viene combinata un motivo c'è, soprattutto dal punto di vista stradale, perché c'è una forma di disordine soprattutto nella mia città, su questo devo essere anche abbastanza chiaro. Quindi erano più le multe contestate perché aveva piovuto e quindi era rimasta calda straccia di quelle invece pagate con lo sconto. Certo, anche perché quelle che purtroppo vengono in qualche modo rovinate dall'acqua devono ovviamente essere inserite prima a sistema quando i ragazzi della società rientrano in sede, quindi consegnano il blocchetto delle multe, vengono inserite e bisogna aspettare questo inserimento qualora non si abbia in mano la copia della ricevuta e quindi inserimento a sistema. Certo, per averne una... Ma che problema di umidità avete a Cassino? Cioè, deve essere la città più umida d'Italia? Beh, siamo tra le più umide. La conformazione geografica nostra di essere ovviamente all'interno di una conca fa sì che noi abbiamo dei tassi di umidità che in alcuni casi superano anche il 70-80%. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, nel senso che mi sembra molto strano, cioè mi fa anche ridere il fatto che nel 2017 sia incredibile, finalmente si è inventato un metodo per consegnare la multa, ovvero una busta, che non sembra una cosa particolarmente innovativa, ma ho letto addirittura che c'è chi si lamenta perché questo è uno spreco di plastica. Beh, guardi, uno spreco di plastica fino a un certo punto, insomma, le bollette, le multe arrivano tutte in busta, doppia busta, plastica, carta, quindi insomma parlare di spreco mi sembra un po' inverosimile, a meno che non si va ad una telematizzazione delle multe, ma per fare questo ci vuole tempo. Cioè la multa via email forse, se arriverà. Beh, dipende, bisognerebbe vedere se è possibile, ma questa è una questione che non riguarda Cassino, ma riguarda ovviamente lo scenario nazionale, bisognerebbe collegare le targhe delle auto. E collegare le targhe a un indirizzo mail. Assolutamente, e lì non si scappa. Ma scusi sindaco, il prossimo step, visto che ci sono anche quelli che prendono la multa dalla macchina a fianco, la mettono sulla propria in modo da non essere a loro volta multati, quindi il prossimo step sarà la multa incollata al parabrezza che non si può togliere. Penso proprio di no. Perché lei mi insegna che fare questo scherzetto di metterla sulla macchina a fianco nel momento in cui si va a pagare e si digita il numero della targa, qualunque polizia municipale è collegata con la motorizzazione, ci si accorge che la multa è di qualcun altro e non la si paga. Sì, no, ma infatti è un altro trucchetto, secondo me, che è quello di mantenere la multa, che è un grande classico. Uno dice: ho già preso una multa, adesso rimetto sulla multa che ho già preso, passerà un vigile, non è che me ne darà un'altra. E se è plastificata, la riuseremo per 4-5 anni di fila. Però lei sa anche che solitamente i vigili i ragazzi leggono. Non solo leggono, hanno una divisione in quadranti della città, quindi dovrebbe essere un vigile che dice: oddio, ci sono passato, già lo stesso, adesso non volevo aiutare chi vuole contravvenire, assolutamente. Comunque sindaco, ci dovremo risentire più avanti per capire se alla fine o al di là di questi primi 2 mesi di sperimentazione, per ora come sta andando? Bene? Sì. Quindi sta andando bene. Il numero, come dire, di incassi l'avete già monitorato? Siete riusciti a incassare di più come lei si aspettava? Guardi, sugli incassi c'è stato un aumento. Ora mi permetto una battuta, non so se l'aumento è dovuto alla busta o a una maggiore poca disciplina da parte degli automobilisti. Questo sarebbe una coincidenza curiosa, che proprio mentre è stata sperimentata la multa imbustata aumenta anche l'irregolarità della conduzione degli automobilisti di Cassino. Probabilmente è dovuto proprio a questo. E va bene, insomma, anche questo si sperimenta nel nostro paese. Noi la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie. Non so se farle complimenti. Sì, da un certo punto di vista sì, perché come diceva il sindaco, se la multa viene fatta ci sarà un motivo e quindi no, ma assolutamente le multe si pagano. Diciamo che è anche un momento storico, che fra nevicate, alluvioni, ci manca anche che ti arriva la multa ed è pure plastificata ed è l'unica cosa che resiste e che non viene deteriorata dal maltempo è la multa. Però assolutamente è un buon metodo. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Trump's executive order is simply un-American. It is suggesting that people's civil liberties can be taken away even if green card holders, even if they're permanent. Questa è la voce di Bill de Blasio, il sindaco di New York, che ha apertamente criticato la misura contro gli ingressi a sette paesi medio orientali voluta da Donald Trump e lo ha definito anti-americano. Una bella accusa. E soprattutto dice una cosa molto bella, che dice: difenderemo tutti a prescindere da dove vengono e a prescindere dai loro documenti di identità. Quindi anche nel senso che noi li difendiamo a prescindere. Anche se sono clandestini, nel senso che uno li difende, poi dopo si capisce se bisogna rimpatriare, li si rimpatrierà, però di principio è difenderemo tutti. Qualcuno dice Bill de Blasio, l'unico leader democratico che resta in campo in questo momento e che potrebbe essere l'anti-Trump del futuro. Allora, ascoltatori, Cristina dalla provincia di Venezia, benvenuta, prego. Ciao, grazie. Ciao. Volevo dare la risposta al quiz. Sì. Prego. Chi è? Allora, io ho pensato che il personaggio è la lingua italiana. Perché? Perché è sulla bocca di tutti, sì. È la lingua italiana. Perlomeno di tutti gli italiani. Sì, esatto. ed è in difficoltà purtroppo, perché ho sentito la notizia della lettera che hanno mandato i 600 professori al Presidente del Consiglio, che molti universitari sono in difficoltà con l'italiano, non sanno, non so, grammaticalmente. Ha vinto! È che volevamo che raccontasse lei la notizia che in realtà è freschissima, è di ieri sera, che è uscita un po' ovunque, di questa lettera di 600 docenti, professori, filosofi che hanno scritto dicendo la lingua italiana è in pericolo, ci sono studenti all'università che fanno errori da terza media. Quindi ci sembrava giusto, visto che noi sentiamo spessissimo la crusca, dare il nostro apporto in difesa. E quindi ed è per questo mi dispiace della notizia, perché bella non è questa notizia naturalmente, ma insomma la lingua sicuramente sta cambiando, c'è un uso della lingua molto impostata sulla lingua parlata, sulla sintesi, su tutto quello che deriva anche dall'utilizzo delle nuove tecnologie, degli smartphone eccetera. Però se 600 professori universitari lanciano questo allarme, è il caso di pensarci, e insomma bisogna forse rimmaginare come insegnare la lingua anche di questi tempi ai bambini, però, perché certo non puoi recuperare all'università facendo corsi di italiano, quindi la questione rimanda alle scuole di base. Cristina, grazie e complimenti, grazie. Ti porti a casa in questo caso il libro di Alessandro Baricco, Omero Iliade, che così, a proposito di lingua italiana, può essere un interessante esercizio sulla riscrittura di questo classico da parte di Baricco. Adesso ancora spazio per un'ultima notizia, e poi anche se volete chiamare ancora l'800 24 00 24 per quello che avete sentito, ma non più per indovinare il personaggio, che come avete sentito è stato appena indovinato. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Celebre pezzo di Johnny Cash dedicato alla vita dei detenuti in carcere, ed è di questo che parliamo. Salutiamo Arianna Censi, vice sindaco della città metropolitana di Milano, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Domenica. La notizia che vogliamo commentare con lei, approfondire con lei, è questa. È uscita in settimana l'idroscalo, per chi non è milanese è un grande parco che c'è alle porte di Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate, recuperato dai detenuti, 10 giardinieri da bollate a opera, a lavoro dal 18 ottobre e adesso si vedono i risultati. Quante persone impegnate? L'ho già detto io, una decina. 10, sì. Così. Sì. Quanta superficie è stata ripulita? È molto grande, l'idroscalo è proprio tanto grande. Certo, loro non è che mantengono tutto l'idroscalo. Hanno preso una parte che era particolarmente degradata. Sì, la palazzina dove ci sono le casse verdi della Lombardia, dove c'è il maneggio dell'idroscalo. Sì. Però è proprio, diciamo, un modo di intendere... e il recupero delle persone che sono restate, assolutamente, libertà, assolutamente, e il bisogno che di questi tempi abbiamo tutti, insomma, nelle istituzioni pubbliche, di fare un po' di incontro con chi è disponibile. Adesso le faccio spiegare bene di che si tratta. Concludo solo la presentazione della notizia, perché a noi no, certo, assolutamente, ha colpito, anche perché il sindaco Beppe Sala ha detto: beh, sono rimasto sbalordito di questo lavoro, dobbiamo farlo di più di quello che è stato fatto fino adesso. È un metodo che funziona, perché è un metodo nel quale vincono tutti, come diceva lei, i detenuti, esatto, ma anche le amministrazioni, anche i cittadini, perché sappiamo che i detenuti impegnati in questi progetti alternativi hanno una recidiva minore, cioè tornano a delinquere meno degli altri, è vero? È così, peraltro c'è il tempo per cui possono fare questi progetti è di 6 mesi, che non sempre questo vincolo è così utile. E poi il punto è, cioè, sarebbe meglio che fosse estensibile. Ma sì, io penso di sì. Adesso io non è che sia un'esperta della materia, però penso che se uno fa bene una cosa a godimento, gli piace, impara un mestiere, ha certamente più possibilità, uscita da quel periodo della sua vita, di trovare un lavoro. Perché poi l'altro giorno abbiamo pranzato con loro e ci dicevano che il vero problema per tutti è quando vanno fuori, è quando escono fuori. Per cui imparare un mestiere, avere delle possibilità di esercitarlo dopo, è secondo me la maniera migliore. Il Corriere riporta questa frase di uno dei detenuti impegnati, Romano, che dice: «Amo fatto tanti danni al monno, mo lavoramo per recuperare, mo se deve continuare». E mi sembra una sintesi. Sì, sembra bello, che dice tutto. Ed è molto bella anche la risposta del sindaco Sala, che dice: non solo continuare questa cosa, bisogna moltiplicarla, portarla dall'idroscalo anche in altri parchi della città, e non solo, va trasformata in COP, in lavoro stabile, in un progetto semplice e replicabile, adottabile anche dai privati. È così? Si riuscirà? È così. Io penso di sì. Peraltro qui, in questo esperimento, chiamiamolo così, in questa convenzione, ci sono dei privati che sono intervenuti o per fornire, come nel caso, io non so se posso dire i nomi, però siccome fanno delle cose buone, dica tutto, uno e l'altro è Sodexo, che hanno da una parte messo a disposizione strumenti e dall'altra hanno anche finanziato il progetto. Ma al momento si tratta di volontariato o c'è una forma di retribuzione di questo lavoro? No, credo lavori socialmente utili. Sì, sono volontariato. Ed è questa, secondo lei, la strada che bisogna percorrere? Sì, io credo di sì. Poi se la cosa dovesse diventare più lunga nel tempo, è anche giusto che percepiscano un riconoscimento, che ci sia un rapporto anche Però in fondo economico. Se tu hai creato in qualche modo un danno alla società col tuo comportamento scorretto, oltre a incorrere nella pena, forse è giusto anche in qualche modo ritorni qualcosa, come diceva appunto il detenuto Romano, lavoriamo per recuperare. Sì, però siccome in Italia l'importante delle pene è che è il reinserimento dei detenuti nella società, quindi mi sembra molto giusto che lentamente percepiscano anche uno stipendio che poi magari diventi il loro lavoro. Esatto, io penso questo, io credo che questo sia il punto. Peraltro lavorare, fare quel tipo, imparano anche a lavorare, alcuni di loro non lo sapevano fare, non è che mantenere sia solo tagliare l'erba, ma è anche imparare. Certo. Certo, si impara anche a fare qualche cosa. Noi dobbiamo salutarci. Arianna Censi, grazie per essere stata con noi, vice sindaco della città metropolitana di Milano. Il prossimo passo è estendere questi progetti in tutta Italia e in tante altre realtà. Grazie mille, devo solamente dire una cosa, sì, che oggi sarò a Conegliano Veneto alle 18 a presentare il libro Fossi in te io insisterei, e quindi ci tenevo a dirlo. Never ending presentation. Never ending presentation, è veramente il never ending tour sta diventando. Grazie a tutti, Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Lucello oggi regia, ciao da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini, ciao e buona domenica anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.